con Giorgio Gomel di J. Call Europa per parlare del documentario Disperarsi per la pace di Daniel Friedman, che sarà presentato a Roma, allo spazio Apollo 11, lunedì 1 luglio 2019. Giorgio, ben trovato. Buongiorno. Lo raccontiamo brevemente questo lavoro? Sì, certo. Il titolo è un pochino così ambiguo, è un po' un'antinomia, no? Dire disperarsi per la pace, ma è una traduzione dal francese in cui c'è un pochino un gioco di parole. Friedman è un regista e sociologo francese e il titolo in francese di questo suo filmato è Désespoir de paix, che in francese vuol dire disperazione, ma anche delle speranze della pace. Ed è un modo, insomma, di catturare la complessità di questo conflitto fra israeliani e palestinesi che ormai ha oltre un secolo di vita, in una zona grigia, come lui descrive, tra momenti di guerra guerreggiata e momenti non di pace, ma insomma di convivenza, di tregua in un certo senso, interrotta poi da episodi di violenza. Friedman è un sociologo francese, insegna all'Alta Scuola di Scienze Sociali di Parigi, ma è anche regista di documentari da molto tempo e ha filmato questo film circa 2 anni fa, il legame anche con noi di J. Cole. Noi siamo un'associazione di ebrei europei formata nel 2010 con un appello alla ragione, infatti il nome J. Cole deriva da Call to Reason, insomma in inglese un appello alla ragione in sostegno, diciamo, alla pace basato su una soluzione che rispetti il diritto dei due popoli all'autodeterminazione, quindi al formarsi di uno Stato palestinese accanto e i rapporti di buon vicinato con lo Stato di Israele. Questo appello fu sottoscritto da circa 9.000 ebrei europei in più paesi d'Europa, presentato al Parlamento europeo, e facciamo un'attività, diciamo, di sostegno pubblicistica con convegni o altre forme in molti paesi europei. Anche in Italia abbiamo una sezione di J. Cole costituita da diversi anni fa e questa è un pochino la nostra missione. Quindi in questo filmato Friedman alterna alcune interviste ovviamente di intellettuali, uomini politici e poi incontra la gente, israeliani e palestinesi, e cerca di affrontare questo interrogativo, cioè come mai quando c'è un certo consenso delle due parti, se uno guarda i sondaggi nell'opinione pubblica, sia tra gli israeliani e i palestinesi, grosso modo metà. In alcuni momenti anche oltre metà, in alcuni momenti meno, ma insomma oltre alla metà degli intervistati dicono siamo in favore di un assetto di pace che risolva questo dannato conflitto sulla base dell'idea di due stati per due popoli, e invece dal punto di vista politico c'è questo stallo micidiale ormai da molti anni, le due parti non negoziano e non si va avanti e sembra, diciamo, che questo conflitto sia irrisolvibile. In più, in un certo senso, il conflitto israelo-palestinese suscita meno attenzione che non qualche anno fa, perché in un Medio Oriente così sofferente delle sue convulsioni, del cataclismo umanitario in Siria, in Iraq, in Yemen, eccetera, l'attenzione di noi europei e anche di noi italiani è molto minore al conflitto, è come se fosse relegato un pochino in secondo ordine, no? Qualcosa, come dire, che è irrisolvibile, ma non è così rilevante per noi. Ecco, quindi in un certo senso il poter proiettare questo film a Roma, e ringrazio appunto gli amici del Cinema Apollo che sono molto attenti a temi anche di taglio internazionale, è un richiamo, insomma, all'attenzione a persone sensibili e consapevoli che questo conflitto è lì e va risolto. Una curiosità rispetto alla soluzione che Sì. prospettate, non è superata dagli eventi, nel senso le aree palestinesi ormai non hanno più una continuità territoriale, un'unità territoriale. Sì. No, ma certo, voglio dire, è molto difficile, nel senso che per certi versi di fatto vige una condizione di uno Stato binazionale, ovvero per l'espansione degli insediamenti e, come dici, il fatto che le zone, diciamo, di autogoverno palestinese siano interrotte, frammentate da delle enclave, e in mezzo ci sono insediamenti israeliani con ben 400.000 israeliani che vivono nei territori palestinesi, senza dubbio rende molto difficile una soluzione a due stati, anche se gli esperti israeliani più attenti, persone che hanno veramente studiato, che hanno negoziato negli anni di Oslo e poi a Camp David nel 2000, fondamentalmente sostengono che con una cessione del 4-5% della Cisgiordania a Israele, è uno scambio paritario di territori, nel senso che Israele cederebbe ad un futuro Stato palestinese altrettanto, 4-5% in altre zone, ovviamente confinanti. Questo consentirebbe di incorporare Israele gli insediamenti più vicini alla cosiddetta linea verde, cioè ai confini armistiziari tra il 49 e la guerra dei 6 giorni del 67, dove vivono circa 300.000 dei 400.000 israeliani che vivono nei territori. Quindi resterebbero 100.000 coloni israeliani che è da evacuare, il che non è semplice. Ovviamente, perché non li puoi evacuare con la forza, sarebbe molto rischioso per la tenuta democratica del paese. Alcuni paventano anche l'esplosione di una guerra civile interna a Israele, nel caso del genere. Alcuni dei coloni sono molto intransigenti, sono armati, sono ideologicamente fanatici. Insomma, è complessa la cosa. Però, insomma, parliamo di 80-100.000 persone. Con incentivi economici, insomma, sarebbe possibile, con indennizzi, sarebbe possibile probabilmente riportarli nel cuore del paese. Insomma, è difficile la cosa, ma il punto è la ragione per cui ancora, come dire, noi stessi, malgrado le difficoltà, noi ebrei della diaspora pensiamo che sia necessario comunque questa battaglia per i due stati, è che se non è così è un disastro. Cioè, voglio dire, se non si va ad una soluzione a due stati, il resto è un disastro, nel senso che un unico Stato comporta, in due parole, o non concedi i diritti civili e politici ai palestinesi, che è, come dire, l'illusione un po' della destra al governo in Israele, e quindi, come dire, questo Stato binazionale non sarebbe uno Stato democratico. E questo ovviamente è inaccettabile per noi, è inaccettabile per gli israeliani di buona volontà, eccetera, eccetera. Oppure tu concedi diritti civili e politici ai palestinesi dei territori, ma a quel punto formi, come dire, uno Stato binazionale che è egualitario e democratico, ma in cui, secondo la demografia, gli ebrei israeliani nell'arco di 10-20 anni sarebbero minoritari. E quindi questo, come dire, è contrario alla storia, diciamo, del movimento sionista, l'idea di fondare uno Stato in cui gli ebrei siano soggetti di storia e padroni del proprio destino, insomma, siano in un pezzo di terra, siano maggioritari. E questa è una cosa che ovviamente per la storia del sionismo e anche rispetto all'oggi per noi ebrei europei, con il risorgere dell'antisemitismo, eccetera, l'idea che ci sia uno Stato ebraico e democratico in cui gli ebrei possano vivere autodeterminandosi è fondamentale. Difficile la soluzione a due Stati, ma le altre ipotesi sono nefaste, nel senso che l'idea di uno Stato, diciamo, dove gli ebrei siano maggioritari, ma viga una piena democrazia, insomma, questo è un punto fondamentale, ovviamente. Se rinunci a questo, l'esito sarebbe molto negativo. Tornando al documentario, quali sono i suoi pregi a tuo avviso? È un filmato molto breve, poco più di un'ora. Alterna, diciamo, momenti di sconforto, ovviamente, a momenti anche positivi, perché essenzialmente affronta appunto questo interrogativo drammatico di come mai non si riesca ad andare avanti, il negoziato si è bloccato quando l'umore nelle due società non è così pessimista. E ci sono momenti positivi, soprattutto negli incontri con le ONG, la società civile, eccetera, perché la cosa appunto positiva che traspare da questo filmato, non a tutti è nota, è che malgrado appunto il non negoziato, lo stallo politico, eccetera, il rifiuto di trattare, c'è una società civile fra gli israeliani e i palestinesi che è molto attiva in moltissimi ambiti, in ambito educativo, in ambito ambientale, di difesa dei diritti umani, sanitario, eccetera. C'è una miriade di piccole, alcune piccole, minuscole, alcune più grandi ONG che lavorano insieme, malgrado le difficoltà ovviamente enormi. Perché se vuoi, dal lato, diciamo, israeliano c'è una legislazione ora da tempo che rende il lavoro delle ONG molto duro in termini di trasparenza, di limiti ai finanziamenti da fondazioni o istituzioni estere. E dal lato palestinese c'è, purtroppo, lo dico, purtroppo un movimento cosiddetto di antinormalizzazione, questo è il nome, che contesta il lavoro comune di ONG palestinese con ONG israeliane, dicendo fino a quando c'è l'occupazione, fino a quando non nasce uno Stato palestinese, queste ONG lavorando con gli israeliani sono dei traditori, dei collaborazionisti. Adesso, insomma, uso questi termini molto pesanti, ma così è. E quindi alcune volte boicottano le attività minacciano coloro che sono attivisti in queste ONG palestinesi, insomma, quindi voglio dire, il contesto è molto difficile, malgrado queste difficoltà queste ONG lavorano insieme, che è molto positivo, e ci sono alcuni incontri, alcune immagini di incontri in questo filmato che danno esattamente il senso di questo lavoro comune. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, allo spazio Apollo 11, lunedì 1 luglio 2019, con la proiezione del documentario Disperarsi per la pace di Daniel Friedman. Un saluto e un ringraziamento a Giorgio Gomel di J-Call Europa. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Va bene, grazie a voi, buona giornata.